Capitolo secondo di L'anno 3000, un sogno di Paolo Mantegazza. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Capitolo secondo. Paolo e Maria, spiegando il loro volo, dalla Spezia giunsero ben presto al di sopra della Sicilia, dove mandarono dall'alto un saluto all'Etna, che da parecchi secoli era spento del tutto. Il dì seguente erano in Egitto e con un buon cannocchiale vedevano le piramidi sempre ferme al loro posto dopo una così lunga corsa di storia. Erano rimaste incrollabili nella loro granitica impassibilità, ma ai loro piedi si infrangevano le onde di un nuovo mare venuto per opera gigantesca di uomini a prendere il posto di tutti i deserti africani. L'acqua aveva preso il luogo della sabbia e per questo solo fatto il clima dell'Europa si era rinfrescato di molti gradi, senza che perciò fosse ritornata una nuova epoca glaciale. Nell'anno 3000 gli uomini maneggiavano con tale artificio le forze della natura che bastava dirigere una forte corrente di aria calda verso i poli per sciogliere gli immensi ghiacci che un tempo occupavano gran parte della zona polare. Maria mostrò il desiderio di visitare le piramidi e Paolo la ubbidì subito, facendo discendere l'aerotaco in pochi minuti al piede di quei giganti di pietra. Salirono sulle piramidi e Paolo spiegava i motti e i nomi incisi nella pietra in lingue ormai morte da un pezzo da gente scomparsa da secoli. Fecero colazione sulla spiaggia e, chiesta una reticella a un pescatore di quel luogo, vollero fare una partita di pesca. In meno di un'ora la loro barchetta era piena di pesci, da che la pesca era allora molto facile. La rete sottilissima, ma tenace ad ogni resistenza, si calava a semicerchio e nel centro dell'arco si celava una piccola lampada elettrica che dava nel profondo del mare una luce vivissima, richiamando a sé da lungi i grandi e i piccoli abitatori dell'acque. Dopo una mezz'ora si chiudeva la rete, rinserrando in sé come in una borsa tutti i curiosi della luce e si ritirava nella barca la facile preda. Paolo, scegliendo soltanto dalla gran massa alcuni tra i pesci più squisiti, restituiva gli altri al mare. Pranzarono sulla spiaggia col pesce ghermito e con le loro provviste tolte all'aerotaco e passarono la notte sdraiati sulla morbida arena, contemplando la luna e ricordando gli antichi egizi, i turchi e gli italiani che si erano succeduti nel dominio di quella terra un tempo deserta, oggi fertilissima. Maria aveva preso tanto gusto nella gita sul mare che con un profondo sospiro disse a Paolo: «Perché non continueremo noi domani il nostro viaggio per mare?» «E perché no?» soggiunse Paolo. «Per l'appunto questa sera passerà di qui il Cosmos, nave postale che da Londra va alle Indie toccando Ceylan. Il viaggiare per l'aria non priva l'uomo del viaggiare per terra e per acqua e noi andremo a Ceylan nel postale inglese. Anche con l'aerotaco mi sarei fermato in quell'isola curiosa dove, come in un museo, si conservano tutte le forme dei governi passati. È perciò che viene chiamata anche l'isola degli esperimenti». Alla sera il Cosmos gettava l'ancora ai piedi delle piramidi, sbarcando molti passeggeri che volevano visitarle. Il Cosmos è ben diverso dagli antichi piroscafi, è piccolissimo in confronto delle antiche navi, perché la sua macchina non è mossa dal vapore, ma dall'elettricità, e l'acqua del mare è decomposta da una pila economica e semplicissima per fornire l'idrogeno, il nuovo combustibile, e poi distillarla onde avere l'acqua potabile. Non c'è più bisogno di un immenso spazio per portarsi seco il carbone che si bruciava un tempo negli antichi piroscafi. La nave è costruita in un bronzo speciale di alluminio e di iridio, metallo leggerissimo e tenace più del ferro. Nessun fumo, nessun cattivo odore e una grande velocità nei movimenti, per cui, toccando terra ogni giorno, i passeggeri hanno sempre viveri freschissimi. Abolito del tutto il mal di mare, perché appena le onde infuriano, dalla prua esce un getto a spruzzo di una sostanza oleosa che si spande sull'acqua e calma, come per incanto, il tumulto della procella. Del resto, sul Cosmos, tutti i comodi e gli svaghi di una grande e ricca città, non più cabine strette e asfissianti con tutti gli odori più disgustosi della cucina, della macchina a vapore e della imperfetta ventilazione. Camere ampie e ben mobiliate, perché non si accolgono che pochi passeggeri, Musica e fiori dappertutto e una cucina che appresta ad ognuno e a tutte le ore ciò che più desidera. Una ricca biblioteca, giochi d'ogni genere. Il servizio invisibile perché tutti possono con semplici bottoni manifestare i propri desideri e i propri bisogni. Il capitano, amico di tutti, più che comandante, è padrone di lunghe ore di svago e di conversazione. Ogni sera un piccolo teatro dove si alternano le rappresentazioni drammatiche con le musicali e dove i passeggeri, facendo da dilettanti, si divertono e divertono. L'immobilità quasi assoluta della nave permette anche il ballo e perfino il gioco del biliardo, che con artificiosa combinazione fa sì che le leggere oscillazioni della nave non turbino punto il movimento delle biglie, diverse anch'esse dalle nostre. Dalle piramidi a Ceylan i nostri viaggiatori non impiegarono che 2 giorni e poche ore prima dell'arrivo l'isola deliziosa annunziava già la sua vicinanza con un intenso profumo di rose che imbalsamava l'aria e innamorava le anime. Sbarcarono al porto dell'Eguaglianza, una delle città di Ceylan e la più moderna. L'avevano fondata gli egualitari. Gente che credeva di aver risolto il problema dell'umana felicità, eguagliando tutti gli uomini nei diritti e nei doveri, nella ricchezza, nel vestito, in ogni cosa. Paolo e Maria, appena scesi a terra, trovarono una folla di curiosi che aspettavano l'arrivo del postale inglese. Erano tutti vestiti alla stessa foggia, di seta bianchissima, tutti quasi senza barba, per cui non si poteva neppure distinguere il sesso. Anche le donne portavano i capelli corti e tagliati alla stessa maniera come gli uomini. Solo parlando loro la voce diversa distingueva il sesso. Anche l'età era difficile a scoprirsi perché i vecchi si tingevano di nero i capelli. Tutto è sempre in omaggio dell'eguaglianza universale. Il porto si apriva sopra una gran piazza tutta cinta da case della stessa altezza e dello stesso colore e a cui metteva in capo 12 grandi vie disposte a guisa di ventaglio. Le vie dirette, anch'esse con case della stessa altezza e dello stesso colore. Paolo e Maria presero a caso una delle vie, guardando a destra e a sinistra per scoprire qualcosa di diverso che li distraesse da quella monotonia fredda e noiosa. Gli abitanti camminavano tutti dello stesso passo, né lento né affrettato, e parevano esprimere la stessa cosa, cioè una noia immensa, una indifferenza per tutto e per tutti. Pareva perfino che avessero tutti la stessa fisionomia. Sperando che quelli egualitari intendessero la lingua cosmica, Paolo diresse ad un viandante una domanda: dove potremmo noi trovare alloggio per un giorno? E chi è il capo di questa città? Potete bussare a qualunque casa e tutti vi daranno l'ospitalità nello stesso modo. Quanto al capo lo troverete nella via Sesta numero 1000, da che le nostre case non si distinguono che per cifre. Così come noi tutti non abbiamo nome, ma al nascere riceviamo un numero che ci distingue da tutti gli altri che portiamo fino alla tomba. Quando uno di noi viene a morire, il primo che nasce prende il suo numero, onde la serie non sia interrotta. Il numero più alto è quello dell'ultimo nato e rappresenta anche la cifra esatta della popolazione, che oggi è di 10.000. Quanto al capo della città si chiama il diverso di quest'oggi perché ogni giorno per turno ognuno di noi che abbia più di 20 anni, uomo o donna, non importa, diventa capo per un giorno solo e al numero 1000 scioglie i problemi d'ordine che possono offrirsi. Amministra la giustizia e fa insomma tutto ciò che nell'andropoli fanno centinaia di impiegati. Del resto il governo dell'eguaglianza è facilissimo perché nella casa del diverso di quest'oggi sta esposto a tutto il codice che stabilisce e regola la vita di ciascuno. Noi abbiamo in orrore la diversità perché offende la giustizia che è la nostra dea e ognuno di noi denuncia subito al diverso d'un giorno chi nel vestire, nel mangiare o in qualsiasi cosa si comporti diversamente dagli altri. Maria non poté frenar le risa a questo discorso dell'egualitario, ma questi non ebbe tempo di accorgersene perché, salutati i viaggiatori, aveva già ripreso il suo passo cadenzato e monotono. Ma Paolo mio, noi siamo venuti in una gabbia di matti. Andiamo via e presto. Ma no, Mariuccia mia, questo regno dell'uguaglianza mi par curioso assai e vorrei studiarlo più da vicino. Son più di 1100 anni che i francesi fecero una terribile e sanguinosa rivoluzione per conquistar, fra le altre cose, l'eguaglianza. Si tagliarono con la ghigliottina migliaia di teste innocenti, ma gli uomini continuarono a nascere gli uni diversi dagli altri. e le gerarchie sociali si adagiarono nella società in cui oggi viviamo e dove la giustizia concede non più le stesse cose a tutti, ma bensì ciò che ognuno si merita. Ma ecco qui che nell'isola degli esperimenti troviamo, dopo 11 secoli, rinnovellato lo stesso sogno del 1789. Meno male che qui non vedo la ghigliottina, questi matti di egualitari si sono liberamente raccolti per attuare il loro sogno. Ma io dico, dolce compagna mia, mi sento un grande appetito e vorrei picchiare alla prima porta che incontriamo per chiedere l'ospitalità. E così fecero i nostri viaggiatori. Al numero 365 della via numero 6 entrarono in una casa dell'eguaglianza che aveva spalancate le sue porte come tutte le altre. Nel vestibolo trovarono una creatura bianco vestita. Sarà un uomo o una donna? Era molto difficile dirlo, ma quando aprì la bocca per salutarli, si accorsero che era una donna e che parlava come tutti gli altri la lingua cosmica. Perdoni, signora, ci hanno detto che in questa città non vi sono alberghi e che ogni casa offre l'ospitalità ai viaggiatori, e perciò vorremmo pregarla a darci la colazione. Entrino e si mettano a sedere. Mi duole però doverle dire che l'ora della colazione è passata e converrà che aspettino l'ora del pranzo che è alle 17. Scusi, signora, ma abbiamo molto appetito e ci basterebbe il più modesto spuntino, due uova e un po' di pane. Non potrei trasgredire la legge dell'eguaglianza. Da bravi viaggiatori avrete con voi qualche piccola provvista che vi permetterà di aspettare l'ora del pranzo che si farà in comune. Intanto eccovi aperta la camera degli ospiti che è per l'appunto libera. Paolo e Maria avevano sempre nella loro borsetta da viaggio degli albuminoidi condensati e degli alimenti nervosi, per cui, chiedendo mille scuse all'egualitario, si raccolsero nella camera degli ospiti, ridendo come due pazzi della singolarità dei costumi di quel paese. Venuta l'ora del pranzo, sentirono suonare un campanello elettrico che lo annunziava e nello stesso tempo suonavano tutti i campanelli della città. Introdotti nella sala da pranzo, videro sedute a mensa 5 persone, il babbo, la mamma e 3 figliuoli, nessun cameriere, nessuna serva. Per turno si alzava ora il padre, ora la madre, ora uno dei 3 figli e da uno sportello aperto nel muro prendevano le vivande, preparate da essi in cucina con piccola fatica personale e con geni ingegnosissimi di meccanica e di chimica. Il padrone di casa, poco diverso dalla padrona nella fisionomia e in tutto uguale ad essa nel vestito, era ilare e con gli ospiti gentilissimo. Si informava del loro viaggio, dava notizie preziose sulla città dell'eguaglianza e sugli altri stati dell'isola, ma soprattutto ci teneva a portare a cielo la perfezione sociale del governo sotto cui viveva. Vedete che mirabile cosa è questo sistema tutto ordine e simmetria? A questa stessa ora nella nostra città tutti pranzano e tutti mangiano la stessa cosa e in molte mense siede anche lo stesso numero di persone da che il celibato è proibito, come è proibito avere più di 3 figli. Soltanto nel caso in cui la sventura ce ne involi uno possiamo sostituirlo con un quarto. Il primo d'ogni mese tutti i capi di famiglia mandano alla casa del diverso d'un giorno la proposta dei cibi che si dovrebbero mangiare a colazione, a pranzo e a cena e la maggioranza delle proposte diviene legge per tutti. Così si variano le vivande e le ore dei pasti a seconda delle stagioni e della pubblica salute. Non vi par questo l'ideale di una società? Nessuno primo, nessuno secondo, ma tutti uguali. Nessuna ambizione, nessuna lotta per il potere che abbiamo tutti quanti per un giorno, nessuna invidia. Che ve ne pare? Paolo non voleva umiliare un uomo così gentile, né disingannarlo nella beatitudine sicura delle sue convinzioni. Si accontentò di dire: «Di certo il vostro organismo sociale è molto curioso, molto originale». Oh, caro signore, non è soltanto curioso e originale, ma è la perfezione e l'ideale di tutti i governi umani. Ma come riuscite a far trovare piacevoli a tutti le stesse cose? Gli uomini nascono tanto diversi gli uni dagli altri. Può darsi, ma l'abitudine delle stesse cose li rende sempre più uguali e noi speriamo col tempo di farli nascere tutti uguali, tutti della stessa robustezza, della stessa intelligenza, degli stessi gusti. Una legge votata nello stesso anno impone a tutti di fecondare la propria moglie soltanto il 1° di maggio. Quanto all'amore lo facciamo tutti alla stessa ora ogni mattina quando suona una campana speciale della casa del governo. Non vi par bello poetico il pensare che voi mangiate, che voi dormite, che voi passeggiate alla stessa ora di tutti i vostri concittadini? Qui Paolo, frenando a stento il sorriso, non poté a meno di dire: «Caro signore, fino dal 1600 i gesuiti del Paraguay avevano pensato la stessa cosa, e una certa campana suonata al mattino ingiungeva ai cittadini di porgere loro tributo a Venere feconda. Non so chi fossero questi gesuiti dei quali mi parlate, ma trovo che un'idea che rimane dopo tanti secoli deve avere un serio fondamento nei bisogni della natura umana». «Io credo invece, soggiunse Paolo, che la natura umana è così elastica e così proteiforme che ci permette di ripetere a lunghi intervalli le stesse esperienze e di ritentare le stesse strane utopie, come credo che sia questa vostra repubblica egualitaria». Il giorno dopo i nostri viaggiatori partirono dall'Eguaglianza e si diressero a Tirannopoli, piccolo stato dove il popolo viveva sotto il regime dispotico di un piccolo tirannetto, Niccolò III, che portava il titolo di zar in memoria degli imperatori di Russia, che avevano governato molti secoli prima gran parte dell'Europa orientale e dell'Asia occidentale. Non si fermarono che un giorno, indignati della pecoraggine di quella gente che obbediva a un solo uomo, che non aveva altro merito che quello di essere nato da Niccolò II, che alla sua volta aveva ereditato il trono di Niccolò I, fondatore della dinastia. Tirannopoli formicolava di soldati che non avevano a difendere la patria, che non aveva nemici, ma che facevano la parte di carabinieri e di guardie di pubblica sicurezza, riferendo ogni giorno al capo della polizia ciò che avevano veduto e udito nel loro spionaggio quotidiano. Una parola sola, poco riverente, pronunziata contro lo zar, era punita col carcere e ogni tentativo di ribellione si meritava la pena di morte che veniva eseguita con lo strangolamento. Niccolò era non solo re assoluto, ma anche capo della religione. Questa era semplicissima: adorazione di un Dio solo e dei suoi santi, che erano tutti tiranni celebri nella storia del passato. Augusto, Tiberio, Nerone, Ezzelino da Romano, Luigi XI, Luigi XIV, Enrico VIII d'Inghilterra, Napoleone I, Re Bomba di Napoli, Pietro il Grande e tanti altri erano altrettanti santi che avevano il loro tempio e il loro culto. Intorno al trono vi era una doppia aristocrazia, la civile e la religiosa, strette entrambe da vincoli di parentela e di una comune solidarietà. Portavano titoli diversi secondo la gerarchia a cui appartenevano e in cambio dei servigi che rendevano al trono erano pagati lautamente, senza far altro che difendere il trono e l'altare. Tirannopoli era circondata da stati liberi e qualche cittadino era riuscito a fuggire dalla tirannia di Niccolò III per recarsi all'Eguaglianza, alla metropoli del socialismo, allo stato parlamentare. Ma l'emigrazione era rara e difficile, essendo punita con la morte se si poteva ghermire il colpevole. In caso diverso era punita nelle persone dei congiunti più vicine al colpevole. Del resto, l'emigrazione era rarissima per un'altra ragione. Gli abitanti di Tirannopoli, nati da due generazioni di schiavi, nascevano già rassegnati e pazienti della schiavitù e obbedivano alle leggi più assurde e tiranniche. I più intelligenti e i più fieri speravano in un messia che aveva di là a venire, che avrebbe ucciso il tiranno e distrutto l'aristocrazia dominante, dando a tutti la luce della libertà. Quando Paolo e Maria, inorriditi dal triste spettacolo di quella società di schiavi, stavano per uscire dalla frontiera di quel paese, si incontrarono con un giovane signore che Paolo aveva conosciuto a Roma quando vi faceva i suoi studi e che poi si era recato per diporto ad Andropoli. Fin da fanciullo aveva istinti tirannici e, divenuto uomo, in pubbliche conferenze e in articoli di giornali predicava la necessità di rinforzare il governo degli Stati Uniti d'Europa con leggi restrittive. Ora il Tribunale Supremo di Andropoli gli aveva imposto di recarsi per un mese nell'isola di Ceylan e vedere con gli occhi suoi che bella e buona cosa fosse uno stato governato con l'antica tirannide. Fu egli stesso che narrò ai due sposi lo scopo del suo viaggio e Paolo, ridendo, gli disse: «Vai, vai a Tirannopoli e un mese sarà soverchio tempo perché tu possa guarire dalle tue idee autoritarie». Continuando il loro viaggio di esplorazione, Paolo e Maria giunsero a Turazia, capitale di un piccolo stato governato dal socialismo collettivo. Le cose si rassomigliavano assai a quelle vedute da essi nella città dell'uguaglianza e non erano meno curiose e ridicole. Incontratisi in un giovinetto che passeggiava per la via, gli chiesero l'indirizzo di un albergo e, mentre egli li accompagnava, entrarono in conversazione con lui chiedendogli di chi fosse figlio. «Non lo so, come non lo sa alcuno degli abitanti di questo paese. Non conosco che mia madre, ma siccome essa ebbe molti amanti, parecchi pretendono di avermi data la vita. Qui il nostro cognome è quello della mamma, perché l'amore è libero e non esiste il matrimonio. I figli sono tutti dello Stato, che è il gran padre di tutti». Maria chiese ancora a quel giovinetto socialista perché la loro città si chiamasse Turazia. E in onore di un certo Turati, che visse in Italia verso la fine del secolo XIX e che fu uno dei più onesti e ragionevoli socialisti di quel tempo, e che con la penna e con la parola preparò l'avvento della Gran Repubblica Socialista che governò più tardi l'Europa. Maria si interessò vivamente allo studio di Turazia e Paolo, in poche parole, le fece la storia della grande e generosa utopia del socialismo, che egli definiva un'arcadica tenerezza del cuore accompagnata dalla più profonda ignoranza della natura umana. «Vedi, Maria, fin dal 1895 l'Europa contava socialisti di diverse specie e un certo Bianchini, arguto e profondo scrittore di quel tempo, ne trovava tre diverse categorie. In prima fila vi erano i socialisti della scienza, una scienza nella sostanza non sempre purissima, ma che nell'esteriorità curava gelosamente il proprio incedere grave, sistematico, dignitoso. Questi socialisti dicevano giorno, ora e minuto della prossima trasformazione sociale e del relativo fallimento borghese. Le loro trovate non peccavano di eccessiva varietà. Si lavorasse troppo o non si lavorasse affatto, vi fosse ingombro o deficienza, piovesse o tempestasse, essi non vedevano al mondo che l'infante capitale in basso e Dio Marx in alto, un grande precursore del Turati. Vi erano poi i socialisti della letteratura, qualche uomo di talento, alcuni mediocri e, dietro il gregge infinito degli autori traditi dalla sorte, cui l'avvento del socialismo sorrideva come una rivendicazione della propria genialità incompresa, ad una santa opera nella quale la tirannia del capitale più non terperebbe le ali ai voli sconfinati del pensiero. Essi sognavano il giorno felice in cui la sordida avarizia degli editori più non contrasterebbe l'ineffabile dolcezza di far gemere i torchi, e quel sogno li esaltava, faceva vibrare le parti più sensibili e più accese del loro cuore. Il socialista letterato era un animale entusiasta, espansivo, convinto fino all'assurdo delle proprie idee, ma personalmente molto innocuo. Il Bianchini distingueva per ultimo i socialisti della cattedra e trovava al suo tempo che erano pochi ma singolarmente cocciuti. Erano uomini spaventosamente eruditi che si erano tuffati col più eroico dei coraggi nel mare magno delle leggi e degli istituti giuridici per ricavarne l'infallibile ricetta che doveva cancellare dal dizionario umano la triste parola di dolore. Il loro lavoro speculativo li aveva inconsciamente separati dal mondo dei viventi per portarli in un ambiente in cui non si riconosceva che una divinità, la legge, che era tutto, doveva tutto, poteva tutto. Non vi era esigenza fisiologica o naturale che si degnassero considerare nell'uomo, ma con la massima disinvoltura essi la perfezionavano, volgevano e capovolgevano così come domandavano i bisogni del loro sistema prestabilito. E accanto ai maestri, lavoratori sobri, illusi in buona fede, sorgevano i discepoli leggeri, superficiali, che si pavoneggiavano nella loro veste pretenziosa di essere superiori a buon mercato. Studiando la storia del socialismo, però, cara Maria, io credo che alle tre specie di socialisti magistralmente definiti da Bianchini sulla fine del secolo XIX se ne debba aggiungere una quarta, che era forse anche la più numerosa, ed è quella dei socialisti per pietà. A questi appartenne Edmondo De Amicis, un celebre scrittore italiano del secolo XIX. E questi sono per l'appunto quelli che dopo 11 secoli hanno voluto ritentare l'antica prova fondando qui nell'isola di Ceylan lo stato di Turazia. Il dolore fisico non esiste più, ma esistono ancora molte forme di dolore morale, ad onta che si cerchi di sopprimere dalla nascita i delinquenti nati e tutti i mostri e tutti gli organismi consacrati a morire maturamente di malattie ereditarie. Qualche volta i biologi periti sbagliano e lasciano vivere uomini che per la loro costituzione sono condannati a soffrire o a far soffrire gli altri, se non fisicamente e moralmente, da che la pietà altruistica è un acerbo dolore. Aggiunge a questo la lotta delle individualità forse troppo libere nei loro movimenti e che fanno nascere spesso contrasti, contraddizioni, disuguaglianze. Da quel poco che ho veduto qui in Turazia, mi pare che l'esperimento, che non dura che da 5 anni, non avrà lunga vita. La gran massa del popolo socialista è costituita da ignoranti e da gente di carattere debolissimo, venuta qui sperando di trovarvi una panacea ai loro mali. Alla testa ho veduto uomini d'ingegno, ma con più cuore che testa, e che si affannano a risolvere questa specie di quadratura del cerchio, cioè di dare a tutti quel che spetta a ciascuno, misurando con equa bilancia il valore del lavoro che è così diverso nei diversi organismi umani. Lo Stato è divenuto una specie di tumore gigantesco, che assorbe tutto con la santa intenzione di distribuire a tutti un'egual quantità di sangue e di vita. Ma questa distribuzione è fatta da uomini che, per quanto intelligenti e buoni, sono pur sempre uomini ed hanno le loro simpatie e le loro passioni, e di qui altrettante cause di errori e di malcontenti. Nota poi che la impossibilità di accumulare il frutto del lavoro per lasciarlo ai figlioli toglie ogni nervo all'energia individuale e una grande apatia regna sovrana nell'atmosfera di questo Stato, dove se non vi sono né oppressori né oppressi, mancano però le sante e poderose lotte del primato e le più belle e nobili energie abortiscono perché è a loro negato il lavoro. Ieri, mentre tu dormivi, ho avuto una lunga conversazione con uno dei capi principali di Turazia, ma trovai in lui un grande poeta invece di un sapiente uomo di Stato. Egli era entusiasta del nuovo esperimento e mi diceva che la Repubblica Socialista ha un grande avvenire ed è destinata poco per volta ad assorbire tutte le società planetarie. Alla mia obiezione che essi avevano soppresso Dio e la famiglia, cioè il tempio in cui si crede o si spera e il nido in cui si ama, egli, crollando il capo in aria di compassione con la voce ispirata e calda di un apostolo o di un profeta, mi rispondeva: «Sì, è vero, abbiamo soppresso Dio, perché è una menzogna. Abbiamo soppresso la famiglia egoistica e animalesca, ma l'abbiamo allargata, portandone i confini a ben più largo giro». Qui siamo tutti fratelli e i giovani sono figli dei vecchi. La parentela non è soltanto del sangue, ma del cervello, del cuore, di tutti i nervi che fanno vibrare la natura umana, i sussulti della gioia e del dolore. La gioia di un solo e gioia di tutti. Il dolore di un solo e dolore di tutti. L'individuo che voi altri planetari avete fatto un Dio, qui da noi non è che la molecola, l'atomo sociale, un membro del grande organismo, che è lo Stato. Noi non sentiamo il bisogno di maggior libertà né di maggiore agiatezza, perché lo Stato pensa per noi e a tutti distribuisce ciò che gli spetta. Noi abbiamo copiato ciò che fa la natura quando plasma gli organismi del mondo vegetale e del mondo animale. Forse che il braccio, un dito del piede o uno dei tanti nostri visceri si lamenta del lavoro che gli spetta nel grande travaglio della vita. No, di certo. Ognuno dei nostri organi lavora per sé e per gli altri e vive nello stesso tempo della vita propria e della vita collettiva. Voi altri individualizzatori fanatici potete salire in alto finché volete, potete sentirvi potenti, ricchissimi, ma siete sempre unità. Io invece, vedete, sento fremere in me la vita di tutti i 30.000 fratelli che per ora costituiscono la Repubblica Sociale di Turazia, come se la coscienza del mio io fosse grande come quella di tutti i miei concittadini. Molte altre belle cose, disse quel socialista, e anche a lui non ebbi il coraggio di gettare in faccia una sola delle tante obiezioni che mi venivano al labbro. Mi accontentai di stringergli forte la mano dicendogli: «Vi ammiro e vi invidio, benché sia di opposto parere sulla forma di governo sociale che vi siete data. Ogni entusiasmo, ogni fede ardente è sempre un fenomeno del pensiero che sorprende e che per di più fa felice chi ne è capace». Da Turazia i nostri pellegrini, viaggiando nell'interno dell'isola, si recarono a Logopoli, o città della parola, una nuova ricostruzione di un antico stato parlamentare. Vi trovarono poco di nuovo ed interessante. Logopoli è una copia perfetta dell'antica Inghilterra quando era uno stato indipendente retto da un governo parlamentare. Di diverso non c'è che questo, che il re non è un capo ereditario ma elettivo. Ogni 5 anni Camera e Senato si riuniscono in una sola assemblea per dare il loro voto nell'elezione del re. Questo capo dello Stato è però un re travicello che non fa che firmare i decreti e a cui hanno tolto anche il diritto di grazia. Ha un ricco appannaggio e porta intorno la maestà e gli orpelli del suo alto posto. Del resto, ministri, deputati e senatori, come negli antichi stati a regime parlamentare, gli stessi intrighi, le stesse corruzioni per essere eletti membri dell'una o dell'altra Camera, essendo allogopoli elettivi anche i senatori. Pagati gli uni e gli altri profumatamente, ma esclusi da ogni impiego, così pure esclusi tutti gli avvocati e quelli che abbiano interessi comuni con le imprese dello Stato. La rappresentanza del popolo però è divenuta un po' più sincera e seria, da che ad ogni votazione importante, ad ogni atto politico di grande gravità, sia pur di un ministro, di un deputato o di un senatore, gli elettori del collegio hanno diritto di riunirsi in comizio straordinario e di dare un voto di disapprovazione al loro rappresentante. Questi cessa da quel momento di essere membro del Parlamento o del gabinetto e deve essere sostituito per via di una nuova elezione. Questa ed altre riforme di minor conto hanno migliorato in logopoli l'antica forma parlamentare, ma vi rimangono sempre queste due infermità organiche, quella di fabbricare le leggi con una commissione di troppi individui, facendole mutevoli ad ogni accidente o di incidente di persone o di cose, e l'altra di mutar sempre al capriccio vagabondo degli elettori coloro che devono dettare le leggi e reggere il timone dello Stato. I nostri compagni non visitarono tutti gli stati dell'isola degli esperimenti, ma soltanto i principali. Oltre gli egualitari, oltre Tirannopoli, Turazia e Logopoli, vi sono altre genti e altri paesi governati diversamente. Basta che un centinaio di uomini pensino un'utopia sociale nuova o ne ripensino un'antica già sepolta da secoli, ed essi sanno che nell'isola di Ceylan si trova sempre un piccolo, grande territorio vergine dove possono fondare la nuova repubblica o la nuova teocrazia. E così si fanno e rifanno gli esperimenti, così sorgono e muoiono città e falansteri e organismi nuovi e bizzarri che servono poi di svago e anche di scuola agli uomini politici degli Stati Uniti planetari. Paolo e Maria seppero infatti che Ceylan possiede, oltre gli stati da essi visitati, poligama, staterello a governo semidispotico dove ogni uomo ha molte mogli, poliandra, altro stato dove invece ogni donna ha molti mariti. Cenobia, una immensa città ieratica da cui sono escluse le donne e gli uomini vivono in un ascetismo continuo. Monachia, piccola città tutta di monache date al culto di Saffo. Peruvia, uno stato comunista dove si ricopia l'antico regime socialista dell'impero degli Incas e dove la proprietà, essendo tutta dello Stato, si presta a ciascuno secondo i suoi bisogni, allargandone la frontiera secondo il numero dei figli. Così pure il lavoro viene distribuito nei diversi giorni della settimana per sé, per i poveri e i malati, per il re e i principi e per le spese del culto. Fine del capitolo secondo, letto da Claudia Galdi.